la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Uomini, se io vi guardo, lasci lo spavento. Buonasera e ben ritrovati alla prima volta. L'ospite di questa sera è Stefano Rampoldi, in arte Edda. Edda è il nome della madre di Stefano, una scelta che in fondo racconta moltissimo di questo artista, che è stato anche l'indimenticabile voce dei Ritmo Tribale che sentite, ma è soprattutto un uomo carismatico, pieno di fragilità malcelate e di grande talento. Una vita, quella di Edda, che in 50 anni ha toccato tante esperienze, in alcune vi si è immerso totalmente, quasi a perdersi. La musica, il successo negli anni 90, la droga, la disintossicazione, un nuovo lavoro che lo porterà lontano dalla musica stessa per anni, come racconterà Edda più volte, come racconta anche qui in un momento di lavoro registrato per la trasmissione della Bignardi. Stasera ho il concerto. Ma dov'è che vai a suonare? Qui vicino. Sarà pieno? Ma che pieno? Non viene nessuno. Per no, questo volevo chiederti se venivi tu. Lo dici sempre dopo. Perché mi vergogno. Mi vergogno a far tutto, te. L'errore più grosso è stato nascere e drogarsi. Sto cercando di non ripetere l'errore. Quale? Di rinascere. E da dunque per anni, anziché fare il musicista, costruisce ponteggi. Sino a che la musica non lo richiamerà a sé. Edda è un artista che non vende un'idea, non fa marketing di se stesso, e proprio in questa sua linea diretta arriva in maniera molto forte. È un artista che guarda la musica con devozione e che crea in una sorta di limbo di sofferenza canzoni come questa, dal titolo Signora, che potete sentire nell'album nuovo di Edda, Graziosa Utopia. Signora, l'hai pagata cara la fedeltà per un'ora. Tutta sola, è vero, mi ha sempre fatto schifo la verità, sono sincero, su questo almeno. Graziosa Utopia è un disco davvero bello e qualcuno lo ha già definito maturo, forte e disperato. Le hai dette anche tu queste cose del tuo album, Edda? Maturo, forte e disperato? Sì. No, non l'ho detto io. E cosa diresti tu di questo disco? Ma è un disco che mi è costato tantissimo. Perché? Mi è costato veramente un casino. E quindi in questo momento non so se, cioè, non so che giudizio dargli. Ma perché ti è costato tanto? Perché c'è una canzone che mi ha colpito di Pino Daniele, una canzone penso che sia su Nero a Metà, dice la musica quanto per la musica quanto pianto, no? Una cosa del genere, una canzone vecchia, no? Sì. Cioè, io mi domandavo sempre, ma come sai pure suonare tu? Forse pensavo avrà a imparare a suonare, cioè, ma... invece vabbè, mi è costato proprio. Cioè, l'atto artistico è doloroso a volte, può essere. Ma il problema è che quando fai queste cose, questo, cioè, è un lavoro strano questo, cioè, quindi fai queste cose perché vuoi esprimere qualcosa, hai senti dentro di te una spinta, però ti metti veramente in difficoltà, insomma, però boh, è venuto, sembra che piaccia anche, quindi speriamo bene. Quanto ci hai lavorato più o meno? Ma noi per registrarlo ci abbiamo messo un anno, ma io l'avevo già preparato, per cui l'avevo già preparato forse un anno prima ancora, per cui due anni. Ma sì, credo. Poi non sono mai sicuro di niente, però molte canzoni sono venute durante quest'anno mentre le registravamo, però io l'avevo già preparato prima. Senti, ma volevo chiederti questa cosa. Tu per tutta la nostra generazione sei stato, insomma, la voce del ritmo tribale, e poi anche il modo in cui sei uscito del ritmo tribale, sei diventato un po' un personaggio epico, no? Fantastico. E... l'avessi saputo. Ecco, infatti tu non avevi questa percezione. Ma va, se lo sapevo che... No, avevo la percezione del nulla, nel senso che proprio sono stati quanti anni, boh. No, non l'ho mai sentito. No, io non ho proprio una, ho proprio una difficoltà a capire esattamente come sono, no? Cioè, probabilmente ho una visione di me che, cioè, non mi vedo come mi vedono gli altri, credo, eh. Non so poi se gli altri mi vedono, ma peggio probabilmente, non lo so, però no, non avevo questa percezione, no. Ma se no rimanevo. Infatti, perché tu hai sentito il bisogno di andartene perché non sentivi che coincideva, diciamo, con... Sì, non sentivo di aver fallito completamente. Adesso sia tanto diverso, però vabbè, almeno non lì, poi vabbè, c'erano altri problemi. Ho aggiunto un altro problema al problema, adesso quantomeno mi limito, però è sempre così più o meno. Ma adesso stai continuando a suonare e scrivere solamente o fai anche altri lavori? No, sto facendo solo questo, questo è abbastanza difficoltoso, insomma. Prima lo potevo fare perché avevo una certa situazione, adesso non ce l'ho neanche più questa situazione, vedremo. Beh, però col disco in uscita probabilmente adesso ti arriveranno anche le conferme. Pensa bene se poi le conferme sono invece ti dicono quanto sei coglione. Perché poi uno comunque ce la mette tutta, no? Poi qualcuno, avevo timore a farlo ascoltare appena era pronto, ho fatto ascoltare ad alcune persone, avevo veramente timore di farlo ascoltare, e adesso non ti dico chi mi ha fatto i complimenti perché sennò però sembra che sia piaciuto, allora sono proprio io che non capisco un cazzo. Beh, però a te è piaciuto mentre lo facevi. Sì. Ma tu che formazione musicale hai? Cioè, tu hai studiato musica? Dell'asino. Proprio una... Io e la musica mi sa che siamo due cose proprio che non c'entrano niente. Ma è strano perché no, io riesco a scrivere le canzoni, non so da dove mi arriva, ma non... però lì mi fermo. Mi piacerebbe tanto riuscire a suonare la chitarra, lì mi sento proprio... mi piacerebbe essere come si chiama quello dei White Stripes, no? Che suona una batteria e lui sono sufficienti. Invece io riesco a scrivere le canzoni, o scrivere, insomma, cioè, più o meno. Però quindi non ho formazione musicale, no? Cioè, ma cosa fai? No. Scrivi i testi e poi anche la musica o... No, mi viene tutto assieme. Quindi tu canti e registri, sì, la canzone? Sì. E forse allora è per quello che tu senti sempre di non capire se va bene o va male, perché hai questa sensazione di essere in difetto rispetto alla musica, cioè forse nasce da lì l'insicurezza. Ma sì, infatti ho molto rispetto di tutti, di chiunque faccia questo musicista, no? Cioè chi sa suonare. Ora ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. La prima volta.